Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Trovata l'acqua su Marte, sono piccoli ruscelli salati che scorrono per alcuni giorni all'anno sul pianeta rosso. L'annuncio dai ricercatori dell'Istituto di Tecnologia della Georgia, che hanno elaborato foto dal satellite. Ora è ufficiale, c'è acqua su Marte. Acqua liquida e salata. Scorre in minuscoli ruscelli che periodicamente appaiono, lasciando striature scure. Striature già osservate, ma di cui fin qui si ignorava l'origine. A fornire la prova scientifica di una notizia che periodicamente rimbalzava come ipotesi sulle cronache dal pianeta rosso, i dati forniti dalla fotocamera ad alta risoluzione montata sul satellite americano Mars Reconnaissance Orbiter, che ha individuato sulla superficie segni che si formano nei mesi caldi e scompaiono in inverno. Un ciclo d'acqua che scorre, dunque, rivoli stagionali con la riflessione che oggi vorrei proporre al pubblico è corroborata da due punti di vista, che saranno due punti di vista naturalmente antitetici, anche se non totalmente in contrasto, rispetto a una domanda che in fondo è difficilissimo averne una risposta. Dove sono finiti, dove stanno gli altri abitanti di questo universo che è così immenso, incommensurabile, immisurabile, nemmeno concepibile dalle nostre menti umane, nemmeno rappresentabile, come tra poco ci dirà uno dei miei ospiti, nemmeno facilmente rappresentabile in scale, talmente grande se noi volessimo fare un piccolo plastico di una parte conosciuta all'universo, non ci basterebbe perché non potremmo mai farlo, perché sono talmente distanti l'uno dagli altri i pianeti, che se anche facessimo la Terra come un granellino infinitesimale di sabbia e per fare altri due pianeti dopo non ci basterebbe lo spazio che abbiamo a disposizione o qualcosa di simile, quindi qualcosa di enorme. Ecco, possiamo realmente pensare che qualcosa che assomiglia a quello che noi consideriamo vita, quindi esseri che si autodeterminano con una loro coscienza, con una loro individualità, possono essersi prodotti soltanto in questo briciolino infinitesimale di materia che è la Terra? Possiamo immaginare che l'unica maniera di avere la percezione di esistere sia soltanto quella che noi conosciamo? Non lo so, questa è la domanda che oggi cercherò per quanto possibile di rispondervi, anche se la domanda tipica a cui nessuno sa dare una risposta esatta, che come dire Dio esiste. Con un atto di fede potete dire sì, Dio esiste. La fede poi è corroborata da un'infinità di prove che l'essere umano su di sé può in qualche maniera trasferire, raccontare come esperienza, ma in realtà non si sa esattamente, nessuno ha mai visto scendere e avere una evidenza condivisa del fatto che possano esistere il sovrasensibile, l'assoluto, il metafisico e via dicendo. Quindi oggi cercherò con i modesti strumenti a disposizione di ragionare attorno alla domanda che in sé non ha una risposta. Dove sono andati a finire? Dove sono tutti gli altri? 800240024. SMAU Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it vi presenta Melog, cronache meridiane. Chiedersi se esista vita su altri pianeti è una domanda lecita che l'uomo si fa da molto tempo ormai. Non abbiamo prove certe che ci possano far rispondere con certezza a questa domanda. Quello che però possiamo fare sono delle ipotesi. ExoMars è una missione da sogno. Ci aspettiamo di ottenere la risposta alla domanda che abbiamo su Marte. Ospita forme di vita? E l'evoluzione? Ma anche come e cosa significherebbe per l'intera evoluzione del sistema solare, Terra inclusa? C'è vita nell'universo? La domanda a cui tutti gli scienziati cercano incessantemente risposta fa capolino ad ogni nuova scoperta. 800240024, vi siete mai posti la domanda dove siano tutti quanti, dove sono gli altri, visto che è così immenso, così incommensurabile, così indefinibile e impossibile anche essere definito, rappresentato, in qualche maniera spiegato l'universo? Beh, è una domanda che non so se da sempre gli uomini se la siano posta, oggi cerchiamo di capirlo un po' meglio, ogni tanto qualcuno di noi se la pone, ma poi molto probabilmente siamo se questo fa parte comunque della nostra capacità di adattarci all'ambiente in cui viviamo, maggiormente assorbiti dal nostro problema quotidiano. In questo momento io sto pensando a quello che dovrò fare fra un'ora esatta al fine di questa trasmissione, penso al mal di testa che avevo questa mattina, penso alle rogne che dovrò affrontare oggi pomeriggio, a piccole transeunti vicende umane del tutto trascurabili, ma non mi pongo nemmeno come pensiero costante e cosa ci sia di immenso, di infinito sopra la mia testa. Amedeo Balbi, buongiorno. Buongiorno. Amedeo Balbi è un astrofisico, insegna all'Università Roma Tor Vergata, studia l'origine dell'universo, il problema della materia, l'energia oscura, la ricerca di vita nel cosmo, è molto attivo nella divulgazione scientifica, quindi riesce a tradurre quelle che sono delle teorie che si scambiano gli scienziati in ristretti cenacoli in qualcosa di traducibile in un pensiero umanamente condivisibile. Editorialista delle scienze, ha appena scritto un libro per cui l'abbiamo oggi chiamato, un libro edito da Rizzoli, Dove sono tutti quanti, che ho usurpato questo titolo proprio per fare la domanda al mio pubblico. Un viaggio tra stelle e pianeti alla ricerca della vita. Ci sentiamo soli nell'universo? Lo siamo veramente soli? Da scienziato Amedeo Balbi, quanto è importante per uno scienziato poi, non dico dare una soluzione a questa domanda che in sé è tecnicamente insolubile, ma porsi questa domanda? La domanda è importante perché è una di quelle domande potrebbero essere paragonate un po' alla domanda copernicana, appunto, se siamo o no al centro dell'universo. Quello sappiamo adesso che non è vero. Lo sappiamo da 4 secoli. Ma ha un centro almeno l'universo, questo lo sappiamo? No, non ha neanche un centro. Quindi, appunto, che bello. La realtà assoluta è senza centro, quindi questo ci fa pensare che in fondo essere decentrati fa parte di una sorta di appartenere comunque a una regola della natura, se questo piace a qualcuno. Sì, siamo in un punto del tutto identico dal punto di vista fisico, in media almeno, rispetto a tutti gli altri punti dell'universo. Poi ovviamente il nostro ha delle particolarità, perché nessun punto è esattamente uguale agli altri, però sicuramente non siamo al centro, perché il centro non c'è. E questa domanda, appunto, del se siamo soli o no, è un po' una domanda che aspira a una sorta di completamento di questa rivoluzione copernicana, no? Perché è in qualche modo il tassello che ci manca, capire se questa cosa che per il momento è unica, cioè il fatto che la vita c'è solo sul nostro pianeta, sia invece appunto un abbaglio, un punto di vista legato alla nostra posizione, o appunto invece se le faccio poi una domanda, le farò domande banalissime, sì. Però tenga conto, sì, ho letto il suo libro, ma non ho strumenti raffinati per riuscire a porre il problema su un piano realmente scientifico. Okay. Quando noi ci poniamo la domanda esistono altri, la domanda sarà posta, fermi mi pare la domanda, dove sono tutti quanti? Sì. Fermi un giorno stava a mensa, disse dove sono tutti quanti, la gente pensava che alludesse agli altri commensali, no, risponde al problema, dice ma dove sono gli altri, non è possibile, c'è soltanto noi nel mondo. Ecco, quando noi pensiamo dove sono gli altri, pensiamo a qualcosa, io nella premessa della trasmissione ho detto qualcosa paragonabile a quello che io considero essere vivente, cioè avere una coscienza, avere una possibilità di costruzione, di modifica dell'ambiente, di articolazione del pensiero. È questo che noi diciamo quando cerchiamo altri, oppure gli altri magari è una sorta di gelatina vischiosa senza nessuna coscienza, però esiste. Questo è già uno dei grandi problemi che ci troviamo di fronte quando iniziamo ad affrontare il problema, perché il primo problema, se vogliamo, è quello di capire che cosa stiamo cercando, e non è tanto facile definire che cosa stiamo cercando, cioè non è tanto facile definire la vita, perché in qualche modo noi ancora non abbiamo neanche capito del tutto che cos'è la vita sulla Terra. Quindi intanto diciamo questa domanda in qualche modo ci spinge anche a capire meglio quello che succede qui sulla Terra, no? Perché ci costringe appunto a fare una differenza in qualche modo tra quello che è vivente e quello che non è vivente. Non è del tutto ovvio stabilirlo. E poi anche su questo, diciamo, ci sono diversi livelli di complessità, no? Perché appunto un batterio, che pure è, rispetto alla materia inanimata, un oggetto incredibilmente complesso, però diciamo sicuramente non è una cosa che noi giudichiamo un nostro simile, ecco, non è qualcosa che abbia una coscienza o la capacità appunto di influire volontariamente sull'ambiente, ecco. Quindi lì c'è addirittura uno step successivo, un passo successivo, che è quello di chiedersi ma l'intelligenza, per esempio, che cos'è? È una cosa che è universale in qualche modo, cioè se io parlassi con un alieno intelligente riusciremmo a trovare un linguaggio comune? Quale potrebbe essere? La matematica, forse? O quale potrebbe lo essere? Lo pensiamo noi, perché è la cosa che più ci sembra vicina all'assoluto, la misurazione comunque in termini percepibili per la nostra mente di ciò che in sé è incommensurabile. Noi infatti, guardi professore, quando ci immaginiamo gli alieni, ci immaginiamo sempre comunque, anche nella forma più indifferenziata che è il blob, ce li immaginiamo come qualcosa che comunque abbia una coscienza, poi via via più antropomorfi, ce li immaginiamo rettiliani, con la testa grande, verdi, gialli, rossi, come i ragni con tante zampe, ma sempre come qualcosa che ci assomiglia, un po' come gli antichi quando immaginavano gli dèi, o anche tutte le religioni che hanno un dio che possono rappresentare iconograficamente, come qualcosa che ci rappresenta, perché se quella è l'origine, più o meno dobbiamo essere simili, fratelli, ma in realtà potrebbe essere tutt'altra cosa, totalmente altra cosa. Potrebbe essere totalmente altra cosa, perché oggi una cosa che sappiamo da quello che abbiamo capito appunto della vita sulla Terra è che l'evoluzione, la selezione naturale, è un meccanismo cieco, cioè non ha una finalità. Se noi, come diceva Stephen Jay Gould, riavvolgessimo il nastro dell'evoluzione sulla Terra, non otterremmo di nuovo lo stesso risultato. Ci sono stati talmente tanti episodi accidentali e in qualche modo imprevedibili, incontrollabili, che appunto, se la stessa cosa si ripetesse altrove, sicuramente noi non arriveremmo a forme di vita in qualche modo simili a noi. C'è un'interazione tra l'ambiente, per esempio, e appunto il contingente, la situazione planetaria che potrebbe verificarsi altrove, e quelli che sarebbero poi quello che sarebbe l'aspetto, la funzionalità degli organismi. Quindi, diciamo, tutto questo complica incredibilmente le cose. È come in quei film di fantascienza, lo dico perché devo dare delle rappresentazioni forti. Lei vedo che usa rappresentazioni forti. Il multiplo di 10 è un vecchio filmato, poi rifatto tante altre volte, che dà l'idea comunque. Una famigliola su una tovaglietta che fa il picnic, si comincia a moltiplicare le distanze, sempre con un multiplo di 10, aggiungendo uno zero, in pochi secondi sono già proiettati in un universo infinito. Si ritorna indietro, si va nell'infinitamente piccolo, dalla briciola di pane si arriva alla composizione della materia e poi si assomigliano. Alla fine sono sempre palle che girano nel nero, quindi questo dà l'idea che il mondo è grande. Però alla stessa maniera, forse dovrebbe dare un'idea anche ai creazionisti, quelli che pensano che tutto risponda a un disegno divino. È un po' come quei film di fantascienza in cui gli scienziati o chissà chi riescono a maneggiare lo spazio-tempo. Ci si ritrova in dimensioni parallele, ma basta cambiare un particolare e tutto nuovamente diverso. Anche la creazione, se tornasse indietro, facesse un riavvolgimento veloce, ridiventerebbe una cosa totalmente diversa. Potremmo nascere con 6 gambe, 7 occhi o non esserci per niente. Sì, assolutamente. Abbiamo evidenze proprio di questo fatto accumulate ormai nel corso dei decenni, che le cose sono andate proprio così. Pensiamo semplicemente ai dinosauri che si sono estinti 65 milioni di anni fa, perché c'è stato molto probabilmente l'impatto di un grande asteroide che ha cambiato, insomma, le condizioni del pianeta, ha alterato il clima e ha spazzato via non solo i dinosauri, ma tre quarti delle specie viventi in quel momento, e in realtà tutta l'evoluzione della vita sulla Terra è segnata da estinzioni di massa. Si calcola che il 99% delle specie esistite su questo pianeta siano estinte ormai. E la cosa riguarda tra l'altro anche le specie umane, perché noi anche questa ci sentiamo molto speciali e appunto molto centrali, ma non dobbiamo dimenticare che insieme a noi, prima di noi, ci sono state altre specie umane, di ominidi, come i Neanderthal, esempio più lampante, ma ormai ne conosciamo diversi altri, che appunto sono stati insieme a noi, hanno convissuto sul pianeta, probabilmente hanno anche interagito con noi e poi si sono estinti, non si sa neanche bene perché. E qui si apre però per lo scienziato un capitolo che dobbiamo in parte gestire, perché fa parte delle richieste fatte. Per molti quei dinosauri altro non erano che i prototipi dei rettiliani, di una specie umanoide che ancora vive dentro di noi. Ci sono fanta letterature, fanta dico perché non hanno evidenza scientifica, hanno pieno rispetto di ogni forma di fede, figuriamoci, ognuno può pensare quello che vuole, ma esistono ancora in mezzo a noi. Esistono anche delle letture molto raffinate, le sentiremo fra un istante da parte di uno studioso della Bibbia, che trova nella Bibbia una sorta di prova che esisterebbe una sorta di innesto del DNA alieno nella Terra per fare una specie di colonizzazione. Do velocemente la parola a 2 ascoltatori, poi ci sentiamo fra un istante. Alfredo, buongiorno. Buongiorno a tutti, Alfredo da Mantea. Il mio non vuole essere ovviamente un contributo scientifico, ma da semplice appassionato di diciamo, antichi scritti sumeri, e quindi anche di un autore su tutti, Zakaria Sitchin, che tramite i suoi studi e le sue traduzioni in realtà ha dato un contributo negli anni su quello che è la visione degli antichi sumeri a proposito di, a loro dire, civiltà che hanno abitato il nostro pianeta e hanno dato quel quid, quel materiale in più per la costruzione del genere umano, dell'Homo sapiens. Quindi in realtà, forse andando ad analizzare proprio questi antichi testi, qualche, non dico soluzione, ma qualche spunto a una visione diversa la si può avere. Guarda caso, si parla in questi antichi testi di tanti elementi che poi tutte le religioni hanno diciamo copiato, comunque da cui hanno... Comunque, Alfredo, noi abbiamo tra qualche istante un esperto che proprio su questo ha basato tutto il suo studio, gli studi della sua vita, che esista anche nelle cosmogonie, nelle metafisiche, nelle grandi religioni, una sorta di selezione attuata nel tempo per evitare che vengano fuori questi elementi che dimostrano che già gli antichi, che sapevano molte cose che noi ignoriamo che sapessero, avevano anche l'idea che comunque l'universo fosse in qualche maniera abitato. Antonio, sì, velocemente. Ciao. Sì. Senti, secondo me esistono, solo che non ci è ancora dato di sapere, no? Perché comunque sono talmente più recenti che... Esistono chi? Gli alieni? Gli alieni, ah, c'è certo. Un'altra entità di vita più superiore a noi, anche di intelligenza, perché comunque, cioè, loro, secondo me, il pensiero loro è che devo fare sulla Terra da questi, e comunque riescono solo ad autodistruggersi da soli, no? Con le centrali nucleari, con i tumori, con... Sì, vabbè, così pensa sempre che gli alieni siano migliori. Potrebbe essere anche una popolazione di arretratissimi trogloditi, che ne sappiamo, perché vale una come l'altra. Tutti pensano che gli alieni siano una sorta di specie superiore che ci deve insegnare la pace, la convivenza, la scienza, lo star bene. Cioè, attribuiamo anche alla fantasia degli alieni tutte le caratteristiche che nei millenni abbiamo dato agli angeli, agli dei, alle creature fantastiche che hanno determinato l'evoluzione dell'umanità. Può essere veramente ancora gente che fa le puzze, sputa per terra, totalmente priva di ogni comprendonio. Potrebbe essere tutto il contrario di tutto. 800 24 00 24. A tra un istante. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento, vi presenta. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Melog, cronache meridiane. Soli nell'universo, no? Che l'uomo... Questa è una domanda incredibilmente importante, e le posso dire che sto cercando di scrivere un altro libro e parlerà proprio di questo. Allora, lì vorrei risponderle in questo modo, mi lasci un momento di tempo. Sì, ci sono quattro possibilità. Una prima possibilità è che effettivamente noi siamo gli unici esistenti nell'universo. Questa è una possibilità, a mio parere è molto remota, perché quando io guardo miliardi di galassie, ciascuna con miliardi di soli, miliardi di pianeti, è possibile che da qualche parte la vita intelligente esista. La seconda possibilità è che questa gente, che tra l'altro è più vecchia di noi, perché molte delle galassie che ci circondano sono miliardi di anni più antiche della nostra, può avere tentato di comunicare con noi e non ci sia riuscita perché i nostri strumenti siano incapaci di riceverlo. Il progresso tecnologico è tale che io sono quasi convinto che, se così è questo il caso, nei prossimi 10, 20, 50 anni riceveremo qualche segnale, perché questi radiotelescopi sono delle cose meravigliose che stanno crescendo. Questo è il Nobel per la fisica Carlo Rubbia, intervistato da Giovanni Minoli, che esprimeva anche lui l'idea, un fisico eccelso che comunque sia qualcosa di altro, è concepibile, è scientificamente plausibile che possa esistere. Mi stanno arrivando un'infinità di messaggi di ascoltatori informatissimi, hanno tutti una loro letteratura o subletteratura che porterebbe a contraddire anche quello che finora abbiamo detto o corroborare le parti in cui si parla di una possibilità di altra vita aliena. Stiamo parlando con il professor Amedeo Balbi, che ricordo che è un astrofisico dell'Università di Tor Vergata a Roma, che ha scritto un libro interessante per Rizzoli, Dove sono tutti quanti, con una frase che disse Enrico Fermi, che fece immaginare agli astanti che si ponesse anche lui il problema dove fosse il resto della vita oltre quelli che stanno su questo granellino di terra che siamo noi. Un viaggio tra stelle e pianeti alla ricerca della vita. Ma come ho detto, volevo contrapporre almeno dei punti di vista che in qualche maniera permettesse una dialettica. Non sono andato a cercare gli ufologi, i cultori dei rettiliani, e via dicendo, ma un altro studioso, uno studioso che sta studiando con un punto di vista molto particolare i testi sacri, quello, i testi su cui l'umanità fonda la propria credenza in un assoluto, in un al di là, in una divinità, e ci legge delle deduzioni molto interessanti. Mauro Biglino, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato ancora una volta. Mauro Biglino è un saggista, è un traduttore, quindi si occupa di esegesi biblica e di testi sacri. Il suo ultimo saggio è La Bibbia non parla Dio, uno studio rivoluzionario sull'Antico Testamento, Mondadori 2015, quindi un testo che esce per un editore certificato, e non sono i libri che si comprano nelle stazioni, non è Terrestre, queste cose di Peter Colosi quando andavano molto di moda negli anni 70. Allora, Biglino, riesce a condensarci brevemente quello che è il suo punto di vista rispetto le possibilità che l'umanità abbia già conosciuto forme di vita aliene? Sì, guardi, allora lei appunto mi ha citato come saggista, io in effetti mi occupo di Bibbia, e tra l'altro ho appena consegnato il nuovo libro a Mondadori che uscirà nei prossimi mesi, dove proseguo la mia analisi parallela tra la Bibbia e altri testi antichi, che sono testi greci, ho inserito adesso anche i latini, Tacito, Plinio, poi Strabone, vabbè, eccetera. E allora la sostanza è questa. Il mio metodo, che è quello che dichiaro apertamente, è: facciamo finta, se vuole un metodo molto banale, facciamo finta che gli antichi ci abbiano raccontato storie vere. E se noi facciamo finta che gli antichi ci abbiano raccontato storie vere, cioè non favole, fiabe, miti, beh, viene fuori una visione, ovviamente ipotetica, di una realtà della storia dell'uomo totalmente diversa da quella che ci viene raccontata. Ci faccia un esempio legato a quello, all'argomento di oggi. Sì, l'esempio legato all'argomento di oggi è che i testi di tutte le, diciamo così, le culture antiche ci parlano dei cosiddetti, li chiamano così, figli delle stelle. Cioè di individui che sono arrivati qui provenienti da altri mondi e che una volta arrivati qui sono intervenuti, diciamo così, a piedi uniti o a gamba tesa, se si preferisce, nel fenomeno dell'evoluzione, in particolare dell'evoluzione umana, dando dei notevoli colpi di acceleratore, cioè facendo sì che per loro si venisse a formare sul pianeta Terra una specie, ho sentito parlare prima appunto del professore di intelligenza, no? Diciamo come la definiamo, eccetera, una specie in grado di capire ed eseguire ordini, cioè una specie in grado di lavorare per loro. Questo ce lo raccontano veramente, ce lo raccontano dalle Americhe alla Cina. Cioè noi saremmo i golem degli alieni, cioè questi servitori sì, umanoidi, sì. Umanoidi costruiti perché noi siamo convinti di essere estremamente raffinati e evoluti, in realtà siamo semplicemente dei pupazzi pronti a svolgere un compito che altri ci hanno insegnato. Lei va molto oltre però nelle sue teorie, mi sembra di ricordare. Lei dice che addirittura il nostro codice genetico, noi saremmo frutto di una sorta di ingegneria genetica che queste, diciamo, altre entità avrebbe mirato per i loro usi. Esattamente, di un impianto che è stato fatto, anzi più di una volta, che è stato fatto, e le devo dire c'è una cosa che mi dà grande soddisfazione. Ci sono dei biologi e dei genetisti accademici, cioè ricercatori universitari, che stanno prendendo, con i quali sono in contatto da alcuni anni, uno ha già scritto un libro, sta preparando del materiale interessantissimo per un libro successivo, che stanno prendendo in seria considerazione questo aspetto e dicono: se facciamo finta appunto che i testi antichi ci raccontino questa storia e che questa storia sia vera, allora troviamo un sacco di risposte a domande alle quali in questo momento ancora risposta non c'è. È chiaro che dobbiamo fare finta che sia vera, il che significa semplicemente non contrapporre tesi a tesi, perché poi queste cose qui lasciano il tempo che trovano, ma avere la mente aperta a delle possibilità che finora invece venivano, diciamo, escluse a priori. Allora, professore Amedeo Balbi, le ho fatto sentire la posizione di Mauro Biglino. Mauro Biglino è un analista, un esegeta di testi sacri. Nei testi sacri lui ritrova comunque, è un discorso molto lungo e complicato, ha scritto tantissimi libri, comunque l'idea che riassumo e vediamo se lei dal punto di vista scientifico ci trova qualche verosimiglianza, che comunque sia la vita altrove esiste, è una vita che ha comunque dei punti di contatto con quello che siamo noi, perché noi saremo l'emanazione di questi progettisti genetici che usano la Terra come un possibile laboratorio per colonizzarla. Per colonizzarla la maniera migliore è creare delle forme di vita o pseudovita dal loro punto di vista che siano poi funzionali a quello che sarà il loro progetto di colonizzazione. Esiste nell'infinità delle teorie scientificamente oggetto di discussione qualcosa che potrebbe agganciarsi a questo tipo di teoria? Ma diciamo sono posizioni molto così lontane dal consenso della comunità scientifica, dal metodo scientifico, ma questo è logico. Esattamente. Questo l'ho premesso. Non c'è diciamo nessuna evidenza diciamo per quanto riguarda la storia dell'evoluzione della vita sulla Terra, che ripeto conosciamo molto bene perché abbiamo un'infinità di prove, di fossili e di artefatti da studiare. Cioè come nasce il nostro DNA lo sappiamo noi, ecco, sì, questo. Lo sappiamo, ovviamente come sempre nella scienza le conoscenze sono provvisorie e possono essere sempre aggiornate, però diciamo non c'è niente che faccia pensare a un intervento esterno o a un disegno, meno che mai. Oltretutto poi sai, in questi casi si potrebbe sempre spostare al di là, no? La domanda è chiedere vabbè, ma chi ha progettato i progettisti, e così non si finisce più. Poi diciamo, a parte questo, l'altra cosa, facendo una battuta, è che noi scienziati diciamo con i testi e con la lettura dei testi ormai abbiamo dei problemi che abbiamo ormai superato da Galileo in poi, cioè noi cerchiamo altri tipi di evidenze e non quello che è scritto nei testi antichi, anche perché poi appunto non viene mai fuori che gli antichi abbiano previsto diciamo delle cose tipo la penicillina o i semiconduttori, insomma qualcosa di su cui mettere le mani, che avrebbe veramente fatto fare passi avanti alla, anche perché poi i testi di riferimento, i cosiddetti testi sacri, in sé sulla loro affidarsi a fonti certe non c'è nessun criterio scientifico di verifica. Quando ti parlano di dei, possono parlare di visioni, possono parlare di fantasie, possono parlare di frutto di indigestione o possono parlare di esperienza concreta, può esserci tutto ma anche il contrario di tutto, o sbaglio? Sì, no, ma infatti la cosa che volevo sottolineare è che invece venendo diciamo al concreto e quindi alla scienza, ecco, il chiedersi se siamo soli nell'universo è stato per molto tempo una domanda filosofica, appunto noi non avevamo proprio i mezzi per investigarla, no, scientificamente. In questo senso appunto abbiamo iniziato parlando della domanda religiosa, se Dio c'è oppure no, ecco, quella è una domanda a cui effettivamente noi non abbiamo nessuna speranza di accedere in maniera empirica, ecco, ma nel caso invece dell'esistenza della vita extraterrestre, noi oggi siamo i primi esseri umani che abbiamo la possibilità di studiare queste cose con i mezzi della scienza, perché abbiamo sonde che vanno sui pianeti del sistema solare a studiare direttamente la possibilità che pianeti come Marte abbiano avuto in passato tracce di vita microscopica. Lei dice nel suo libro che avevamo sbagliato un po' il tiro, immaginando che la vita si sarebbe potuta produrre in un certo punto dell'universo invece da tutt'altra parte. Sì, diciamo nei passati 40 anni, quindi da quando abbiamo iniziato ad affacciarci a queste questioni, le cose sono molto cambiate, sia per quanto sappiamo della vita sulla Terra e della sua adattabilità e della sua capacità di resistere in ambienti estremi, sia anche sugli ambienti stessi del nostro sistema solare, che abbiamo scoperto essere forse un po' diversi da come ce li aspettavamo. Ma soprattutto la grande novità degli ultimi anni è che adesso sappiamo, proprio con evidenze, che esistono altri mondi intorno ad altre stelle. Cioè noi soltanto vent'anni fa non avevamo mai avuto una prova che ci fossero pianeti intorno ad altre stelle. È una cosa che da Giordano Bruno in poi diciamo si era immaginata, appunto che ogni punto luminoso del cielo fosse il sole per un altro pianeta, ma non avevamo le prove. Adesso abbiamo le prove e quindi diciamo in futuro, veramente nei prossimi 20-30 anni, noi avremo un'infinità di mondi da studiare con i nostri telescopi, con i nostri strumenti, per trovare evidenze dirette. Ecco, quindi questo il messaggio da dare, è che siamo diciamo all'inizio di una epoca che potrebbe essere insomma rivoluzionaria da questo punto di vista, perché potremmo avere accesso diretto a informazioni che fino ad oggi c'erano. È come scoprire un piccolo tesoro facendo il restauro di una vecchia casa. Pensiamo che l'universo fosse questo, e già in sé era abbastanza complicato ad essere definito, però visto ce ne sono talmente tante altre cose che noi nemmeno immaginavamo. Ci fermiamo un istante. Melog, cronache meridiane. Ho 800 24 0024. Stiamo cercando per quanto possibile di dare un senso alla domanda dove sono tutti quanti riguardo a possibili abitanti di altre parti dell'universo, che è anche il titolo dove sono tutti quanti del libro di Amedeo Balbi edito da Rizzoli, un viaggio tra stelle e pianeti alla ricerca della vita. Abbiamo Leda al telefono. Leda, buongiorno. Buongiorno a lei, è un gran piacere sentirla, bravissimi. Senta, io ho fatto sta domanda forse cretina, c'ho 91 anni, però è una domanda che mi tormenta da tanto tempo. Da 91 anni la tormenta questa domanda. Mi sente? Sì, sono 91 anni che ci pensa. No, io ho 91 anni, però mi faccio delle domande in continuazione. Questa qui mi tormenta, cioè gli scienziati potranno stabilire quando è iniziato, come è iniziato, però il perché di tutto questo, quello che mi tormenta. Quindi lei vuole sapere se all'inizio c'è veramente la scintilla divina, se 13,8 miliardi di anni fa, sì, c'è stato il Big Bang, ma cosa l'ha causato? Velocemente, mi rendo conto di dire velocemente, quasi prendere in giro, professore Amedeo Balbi, astrofisico dell'Università di Roma Tor Vergata, possiamo rispondere in maniera soddisfacente alla nostra ascoltatrice 91enne che si domanda cosa ci sia stato all'inizio? No, nel senso che la scienza appunto indaga i meccanismi, il modo in cui succedono le cose, cerca di capire i perché in un senso forse un po' diverso da quello a cui attribuiamo normalmente appunto il significato di perché, cioè il perché succede una cosa, perché diciamo in ambito scientifico, perché c'è stata una causa precedente, ecco, cioè o una forza che ha agito, o una legge che ha fatto sì, o delle condizioni iniziali che abbiano fatto sì che si sia verificato un certo fenomeno. Cioè noi sappiamo cosa è successo dopo il Big Bang, prima non possiamo saperlo. Esatto, in un certo senso è anche, per certi versi, ha anche forse poco senso chiederselo in ambito scientifico, no? Perché quello che c'è prima del Big Bang non può essere oggetto di indagine scientifica. E tanto non c'è più, adesso non c'è più. Esatto, sì, tra l'altro non c'è più. Però tutto quello che è successo dopo, cioè da una frazione infinitesima di secondo rispetto all'istante iniziale, che peraltro noi non sappiamo a questo punto neanche se è veramente l'istante iniziale, perché sappiamo che l'universo in cui viviamo ha avuto la sua storia, ha avuto origine da questo evento che chiamiamo Big Bang, ma non sappiamo se il Big Bang sia stato preceduto effettivamente da qualcos'altro oppure no. In teoria potremmo vivere in un universo che esiste da sempre, che ha semplicemente cambiato stato nel corso del tempo e così via. Quindi le domande sul perché sono... Questo è come una stagione dell'universo, cambia una stagione e adesso siamo in quest'altra. Sì, adesso addirittura ci sono ipotesi sul fatto che ci siano infiniti universi e che il nostro sia soltanto uno fra i tanti. Però appunto si esce un po' dal campo dell'indagine empirica, cioè dal campo dell'indagine scientifica. Le domande sul perché sono importanti e in qualche modo secondo me la scienza ci dà anche qualche strumento per mettere insieme qualche risposta, ecco, però non sono veramente domande che hanno a che fare. Professor Balbi, vediamo se riesco conoscendo un pochino il mio pubblico. È chiaro che la religione dà risposte più soddisfacenti. Ti dice c'è un signore con la barba, o c'è un signore col turbante, o c'è un signore con sette braccia che a un certo punto schioccano le dita e appare tutto. È chiaro che questo è molto più facile da credere, onestamente è più facile avere una fede che avere una confidenza nell'evidenza scientifica, perché la scienza non è fatta per soddisfare la tranquillità degli umani. Oggi c'è stata la sentenza dalla procura di Trani che hanno detto per l'ennesima volta che non esiste un rapporto tra il vaccino e l'autismo. Era qualcosa che era una verità già scientificamente comunque condivisa, è un'evidenza scientifica. C'è stato bisogno di una sentenza che contraddicesse un'altra sentenza. La scienza non ha una comprensione per la passione umana. È chiaro che se vogliamo essere contenti possiamo benissimo pensare che esiste un creatore che ha creato l'universo, l'ha creato in una certa maniera, l'ha creato perché gli uomini facessero alcune cose, se le fanno bene poi ritorneranno da lui, staranno tutti bene o avranno un pacco di vergini a disposizione o si eberanno delle musiche celesti o faranno altre cose. Questo rende molto più, è molto più umano e quindi sembra molto più costruito dagli umani. L'altro è qualcosa che l'umanità con grande difficoltà cerca di conquistarsi. Ho riassunto un po' il problema, professore? Direi di sì, perfettamente. Allora, voleva dire una cosa ancora Mauro Biglino, perché aveva una replica da fare. Ricordo che è un saggista che si occupa dell'esegesi di testi sacri, attraverso cui lui ha delle chiavi di lettura che darebbero delle risposte diverse rispetto a quella che noi consideriamo storia dell'umanità. Biglino. Sì, grazie. No, ma più che una replica era semplicemente una considerazione su quanto ha detto il professore nell'intervento precedente, no? Quando diceva fino a 20 anni fa di altri pianeti aveva parlato soltanto Giordano Bruno. Poi 20 anni fa ne abbiamo avuto l'evidenza scientifica. Fino al 1929 nessuno sapeva che esistesse Plutone, che è stato scoperto nel 1930, questo lo aggiungo io. Questo sta a significare che proprio anche dal punto di vista scientifico è sempre bene avere la mente aperta, perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo. E la precisione con cui i testi antichi ci racconta certi eventi ci dovrebbe indurre a pensare che potrebbero non essere tutte favole, questo intendo dire. Quindi facciamo finta che e teniamo le menti aperte a tutte le possibilità, perché potremmo avere delle grosse sorprese. Sì, ma la scienza non è mai assoluta. La scienza dice l'evidenza scientifica è fino a questo punto, potremmo sovrascriverla ogni momento, e lo scienziato vero è quello senza pregiudizi. O questo, non so se condivide il professor Amedeo Balbi questa ultima mia lettura. Assolutamente, cioè se c'è qualcuno che è aperto a qualunque possibilità e qualunque cambiamento delle conoscenze acquisite è proprio lo scienziato, ma ovviamente questo va fatto sulla base di evidenze e soprattutto anche il concetto di previsione, no? Forse è un concetto un po' diverso da quello che appunto le persone comuni hanno talvolta. Il concetto di previsione scientifica è un concetto molto accurato e preciso, cioè non basta dire... Cioè Giordano Bruno era un filosofo, aveva fatto questa ipotesi, era un'ipotesi filosofica. Il momento in cui viene formulata in quel modo è un'ipotesi filosofica e ha dignità come qualunque altra ipotesi filosofica, ma non è scienza perché non c'è la prova. Chissà quante altre ipotesi filosofiche sono state fatte nel corso dei secoli e sono state dimenticate perché la scienza appunto poi non ha trovato evidenza di questo. Adesso noi ci ricordiamo solo di quelle che appunto Giordano Bruno o chi altri che ci permettono diciamo di trovare dei punti a corroborare il nostro pensiero. Ringrazio Amedeo Balbi, ringrazio Mauro Biglino, ringrazio gli ascoltatori, sono rimasti perplessi sui due fronti, ci state raccontando un sacco di sciocchezze, c'è finalmente una boccata di pensiero intelligente questa mattina. Fate un po' voi, gli alieni ci staranno guardando. Alla prossima. Thank you.